Venezia 75. La mostra del cinema di Venezia, raccontata da Piero Di Domenico. Continua la 75esima edizione del Festival del Cinema di Venezia e noi come sempre ce la facciamo raccontare dal nostro Piero Di Domenico. Ciao Piero. Ciao Alessandro, un saluto a tutti gli ascoltatori. Partiamo da un premio, ovviamente Venezia è un grande contenitore anche per tante iniziative collaterali, fiancheggiatrici rispetto naturalmente al cinema mainstream, al cinema dei grandi autori. Vi avevo parlato la scorsa settimana del premio Migrarti, bandito dal MIBACT e destinato a cortometraggi legati al tema della migrazione, che aveva in concorso quasi un terzo di film provenienti dall'Emilia Romagna come autori o come produzioni, e in effetti la statistica ha avuto il suo peso, perché il premio è andato al film Il Mondiale in Piazza, diretto da Vito Palmieri, che è un regista di origine pugliese ma da anni a Bologna, prima studente e oggi anche docente a contratto del DAMS, con un film prodotto da Arte Culture, che è una società di produzione bolognese. Il Mondiale in Piazza, girato in Puglia, vede come protagonista un ragazzino nato in Italia da padre e madre senegalesi, che durante questo torneo che si viene organizzato nella piazza della cattedrale di Bitonto in parallelo con i mondiali in Russia, tra appunto squadre di migranti di diverse nazionalità, però questo ragazzino vuole giocare con la squadra dell'Italia. L'organizzazione rifiuta, perché appunto la squadra dell'Italia è già al completo, e quindi lo invita a farsi una sua squadra, e Ahmed fa proprio questo, cioè mette insieme ragazzi di etnie e provenienze geografiche diverse, che però appunto sono nati in Italia, e quindi naturalmente poi il cortometraggio racconta questo torneo, con la finale che sarà Italia contro Italia, appunto quella l'Italia diciamo più ufficiale contro l'Italia più ufficiosa. Quindi il film è naturalmente con una metafora molto forte, molto chiara, fra l'altro che si è avvalso anche della collaborazione di una cooperativa sociale di Bologna, cioè l'Arca di Noè, che contribuirà a distribuire anche il film nei suoi circuiti. Quindi insomma un premio importante per un progetto importante, che appunto a Venezia trova fortunatamente il suo spazio. Per quanto riguarda invece la mostra, dicevo che probabilmente tra le visioni più applaudite c'è stato appunto quello dell'amica, dei primi due episodi della serie tratta dai romanzi, dalla saga di Elena Ferrante, che ovviamente non è un film, sto parlando dell'Amica Geniale, diretto da Saverio Marconi, con fra l'altro anche Paolo Sorrentino tra i produttori, che verrà proposto da Rai 1 e anche da altre piattaforme, con appunto lo zampino di Netflix, a conferma di quanto il ventaglio, il fronte delle distribuzioni e delle possibilità ormai sia così ampio che, come dicevo nel primo intervento dal Lido, la legislazione italiana, che è sicuramente molto più elastica, anche perché non ha affrontato il problema di fatto, è molto più aperta rispetto a quanto non sia quella francese, che appunto ha costretto poi in qualche modo, costretto o quasi, il Festival di Cannes a prendere delle posizioni molto drastiche sulle produzioni di Netflix, di Amazon e di altre piattaforme che si sono affacciate in maniera prepotente in questi ultimi anni. E quindi in questo senso la mostra del cinema di Venezia di quest'anno non è solo una mostra di arte cinematografica, è una mostra molto più ampia e credo che ci dia anche in qualche modo il polso di una produzione che ovviamente è molto più frammentata, molto più frastagliata, ma anche molto vitale, ed è un peccato appunto che ad esempio un festival come quello di Cannes in qualche modo perda, diciamo, questi pezzi che invece appunto Venezia quest'anno in maniera anche appunto abbastanza per motivi anche abbastanza fortuiti è riuscita a tenere insieme. I left my conscience like a crying child. Lock the doors behind me, put the pain on fire. Broken like a window, I see my blindness now. Veniamo alla mostra di oggi, alle proposte di oggi che sono proposte di grande interesse perché i film in concorso sono due, uno è quello del messicano Carlos Reydagas, c'è questa forte cinematografia messicana che negli ultimi anni è rappresentata da registi come Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón, che è di una generazione precedente, che era già, è già passato in concorso a Venezia, appunto Regadas, che è anche interprete di questa storia d'amore ambientata appunto in una fattoria messicana. Molto più diciamo legato invece al presente, alla storia recente, l'altro film in concorso, che è dell'inglese Paul Greengrass, 22 July, che descrive la strage di Utøya avvenuta nel 2011 per mano di Anders Breivik, in cui persero la vita 69 ragazzi tra i 14 e i 20 anni. Greengrass è un regista che ha cominciato occupandosi della storia contemporanea. Ricordo che vinse l'Orso d'Oro a Berlino con uno dei suoi primi film del 2002, Bloody Sunday, che raccontava la domenica di sangue di Derry in Irlanda del Nord nel 1972, anche se poi è diventato famoso anche per aver diretto alcuni episodi della saga del personaggio di Jason Bourne interpretato da Matt Damon. Qui appunto ci porta in quella tremenda giornata appunto che scosse profondamente tutta l'Europa, in qualche modo anche la tranquilla Nord Europa, mettendo a nudo anche come dire la fragilità di una società come quella norvegese, che si era trovata completamente smarrita e spiazzata di fronte appunto a questo fanatico neonazista che appunto oggi è in prigione. Naturalmente però, come di consueto, non c'è solo il concorso, perché tanti altri stimoli arrivano anche dalle altre sezioni. Fra l'altro oggi fuori concorso c'è anche un film diretto da Valeria Bruni Tedeschi, I Villeggianti, con Riccardo Scamarcio, Valeria Golino e la stessa Bruni Tedeschi, ma soprattutto a proposito di attualità, segnalo che ci sono oggi c'è questo atteso film nella sezione fuori concorso non fiction, American Dharma, che è un viaggio alla scoperta di un personaggio chiave del nostro tempo, l'anima nera, almeno fino all'altro ieri, di Donald Trump. Il documentario di Harold Morris, uno dei grandi maestri del documentario contemporaneo, è infatti un viaggio che ci racconta Steve Bannon, lo stratega di Trump in campagna elettorale, giornalista, produttore cinematografico, colui che appunto ha orchestrato la campagna vincente di Trump a sorpresa, ma altrettanto a sorpresa poi è stato rapidamente estromesso da ogni incarico, in qualche modo anche una sorta di esilio, di ostracismo. Ricordiamo anche appunto che di recente gli è stato rifiutato, dopo che era stato invitato, è stato appunto in qualche modo invitato a non parlare al festival organizzato, una kermesse organizzata dal New York Times a New York. Quindi ovviamente è una riflessione molto attesa su un personaggio molto controverso, molto discusso appunto come Bannon. Mentre un'ultima segnalazione la riserverei a un altro film che racconta una storia nascosta appunto tra le pieghe dei grandi avvenimenti. Arrivederci Saigon è il nuovo documentario di Vilma Labate, una regista che da sempre ha affrontato temi sociali legati al presente e alla storia. In questo caso ha raccontato appunto in questo suo documentario la storia di una giovane band italiana femminile che dalla Toscana venne spedita in Vietnam a suonare una base militare americana, e quindi, come dire, è il racconto di un mondo che era quello delle case del popolo, del vecchio PC, delle roccaforti rosse in Toscana. È un film, ovviamente, è un documentario che racconta una storia del 1968, e appunto di questo viaggio, di una tournée in estremo oriente, Singapore, Hong Kong, le Filippine, un viaggio quasi incosciente, che però poi le porterà a, senza che appunto sapessero bene dove stavano andando, a ritrovarsi in Vietnam e soprattutto nella guerra del Vietnam. E quindi è un film appunto che racconta una piccola storia, ma decisamente illuminante anche, di come all'inizio la guerra in Vietnam veniva naturalmente vista e letta da così lontano nel nostro territorio, e anche naturalmente dalla sinistra, diciamo così, più istituzionale. Venezia 75, la mostra del cinema di Venezia raccontata da Piero Di Domenico.